come dirlo, più o meno. Via questo. non vi dice uno, sono preparazione che non è a tempo, ma è stato, non è più come una volta, che fai come se è tutto cambiato. Quel giorno ho fatto ho parlato con fuori, c'era pure un sacco di preparazione, ho parlato con fuori, immaginati tu. Adesso devo vabbè, la pazienza di smontarmi il motorino della, come si chiama, della, perché non sta funzionando, della ventola del 140. Cercate uno quasi uguale, adesso vogliamo un po' di smontare un DVD, se lo trovo ci metto il 15, così almeno la ventola funziona. Ti serve una ventola praticamente? Il motorino mi serve, non la ventola ce l'ho, capito? Devo solo smontare il motorino e cambiare il motorino del 140, perché la ventola non mi stava funzionando. Cioè in pratica quando andava un rullare che scaldava anche ricezione, l'audio si abbassava ed in pratica andava in protezione, capito? Praticamente il motorino è una cosa, perché quando arriva a quel temperatura di calore deve accendersi il motorino, la ventola, e quindi non che io ce l'ho, ne ho ventolina, il motorino non ne ho. No, no, è proprio il motorino della ventola che devo buscare, quello che monta i DVD, come si chiama, anche il motorino del video di Saturno, va bene. Io ho fatto la pasta stamattina, adesso me ne sto mezzo chilo, adesso se mi sento un pacco lento, c'ho la pasta per domani, no? Ma stavolta mi mangio la, come si chiama, se non si passano le mangi, mangio la schiena di cavallo, sembra la ciabatta, sembra, e poi domani mi mangio la pasta a pranzo, a cena. Sì, che è per l'ultima di grossano, la pasta, non ce la faccio le passate. Cacchio di cane, perché è più tardi, dove mi voglio mangiare, ho mangiato due fette di melone, una fetta di anguria, capito? Sono già poco, e oggi mi sono fatto questo, domani al giorno mi faccio una bella spaghettata con pomodoro ciliegino e padella e basilico, che è buono. Ah beh, cioè, va bene, almeno ti rinfresca un pochettino. Allora, vedi che non c'è nessuno al canale. Tutti quanti handicappati. Di Zecca, tutti, aspetta, adesso parliamo di altre cose, hanno del baracchino. Di cerco tutti i politici che stanno candidato, anche le galline stanno candidato. E quindi. Ma parecchie persone che mi sono meravigliato che stanno candidato. E ho scritto, guarda, non vi offendete, c'è anche mia nipote che sta candidato, e del televoto non lo do a nessuno, non vi offendete, guarda. Quindi, siete tutti uguali. Se punisci, provetto, poi non si fanno mai sentire, non ti conosco solo per dare voto, e poi chi si è visto, non è che si rabbia la luce, datemi 10.000 euro e io vi voto. Vota Antonio, fai. Sono andato una volta lì al circolo da Flacconi, quello che c'è lì vicino a Luca, lì Luca Flipper, e c'era questo politico, c'era, ha fatto una specie di buffet, ha fatto, e sembrava quando ho visto la roba nel tavolo, dice, prendete voi il piatto e arrangiatevi. Per culo sono andato a riempirmi il piatto e a mangiare, se no c'era poco motivo di fame, per carità, la settimana scorsa invece non ci sono andato, ho avuto via di recuto il voto e come si chiama, il buffet. Ti invitano qua, di fresco, vedete che sta, ci sono due cazzati, mi ha invitato il mio ex direttore, parlo tanti, il suo nuovo sindaco Mascia, ma che venisce dal gruppo IPD, io l'ho sempre odiato. E dirò che c'era Gallardo che ha detto due cazzate grosse, che sa se era abbandonato, il teatro civico, non ero mai di me accuse, dovevo essere con tutti, che tutti gli altri PD chi virano. stavo per dire, scusa che sei parlato il 35 e tu ormai sei la regione tantissimo tempo, invece di parlare del corso Vittorio Emanuele, la parte bassa che ha abbandonato e sono padroni di extracomunitari, mi parli del civico che io non ci sono mai andato, no, io e tanti altri non gliene frega niente. Cioè, questi politici di cacca, ma non si ne andare. Parlano della saletta, del costo. Adesso vogliono dare le 85 euro a ora a cercare infermieri e medici. Ma poi quelli se ne vanno da lì, dice, cosa sono? Lo siamo di turno io qua, che rimane a pronto soccorso. La zitta che me ne vado fuori. E chiamati i portoghesi, così. Scusami, vogliamo andare a pronto soccorso, bisogna sapere la lingua a casa per poter parlare con questi, se no si dice guardi mi fa fare la pace, posso toccare di curati per la pace, ti cura per qualche altra cosa. Allora, dammi un minuto, vado a girare e toccate con Perone. E fai pure, non c'è problema. Perché? Ciucucucucu. Ciao Giovanni. Ciao Antone, buonasera. E me? Cosa mi racconti? Ehi, nulla. Stavo... Sto modulando qualcosa, con quel voodoo aperto, perché devo cercarmi la ventolina. Una volta che il voodoo aperto funziona bene. Anche se non parte la ventola già piglia il freschetto perché c'è la finestra aperta. E l'originale si trova? Non so, devo andare a Fusaro adesso, questi giorni. Prima devo staccarla dall'apparecchio, capito? Devo staccargli sono due viti davanti e due viti dietro. E allora esce tutta il motorino di dietro con lo pilottino. Però ce l'abbia, perché quello non sono più niente per l'India, ma chi c'ha ancora quel tipo magrulino c'è, oppure un altro, quello grosso. Ah, c'è cosa, c'è Marzia, c'è il marito. Ah, ecco l'altro giovane, non c'è, come si chiamava, non me ne ricordo. Franco mi pare, se non mi ricordo male. No, non era Franco, un altro nome ci aveva. Cioè io ce l'ho tutta la lingua, non mi ricordo. Quello era bravo, eh. Ah, tu stai dicendo quello dove tu nella GBC, no? Il marito di Antonello, Antonello è in pensione, oramai. C'è Alessandro si chiama, il marito di Marzio. No, io parlo di dipendenti che aveva sempre Fusaro, che c'era rimasto lui e ecco piaceva Giovanna, poi c'è Giovanna, mi sembra che era morta, e c'era rimasto lui, lì che una volta mi era caduto dalla scala, mi era caduto quello lì. E Antonello si chiama più vecchio, in pensione ormai. Ah così, in pensione, e quello era bravo, quello riusciva a tutto riusciva, conosceva tutti i pezzi. Sì, conosceva tutti i pezzi di lui, se andavano solo a cercare a lui, non è che andavano a cercare qualcun altro, quando entravano Antonello dov'è? Lui se ne fuggiva ogni tanto, andava al circolo lì a bersi un vinello e subito usciva signora Giovanna, sempre a male Antonello. Ecco, era bravo, una brava persona. Io sapevo che era in pensione, infatti ultimamente sono salito a prendere un paio di banane, ho trovato che c'era questo tipo qua e ci sono riuscito a dargli lo spinotto delle cuffie, perché ce ne sono due tipi, il grande e il piccolo, non ho riuscito, dice non esiste il piccolo, cosa non esiste? Allora me ne sono andato e sono salito a GBC a pigliarmelo. Io l'ho visto l'altro giorno, per carità, quando veniva l'antenna, prima mi ha detto neanche un mese prima, 79 euro, che me la dava, poi l'altro giorno è uscito a 90, e gli ho detto no, amico mio ha detto, ma quei soldi non li vuole spendere, ha detto se la fai guardare, ha detto da mettere a fuori, che costa 79 euro. Hai capito? Quando sono stato a tagliare bici mi sono messo le mani in testa, è epoca di roba lampada in terra. Certo, eravamo molto gatti. Ecco, a razza da sola, ragazzi, hanno conosciuto in fisica. Di Seba, lo spinotto del cucco è quello piccolo, perché c'è grande e piccolo, no? Non risulta sapere che gli serve anche il piccolo, roba la mattina. Allora sono stati i CBC e l'ho presa lì, che ancora c'è quello lì. Lì lo piace ancora, a voglia, l'altro giorno lì alla CBC. Oh, alla CBC non si può entrare. Alla GBC non si può entrare, per carità, come fa quello lì a andare a farci poverino, ragazzi, già sarà malato, ma mi si mette per via di roba e a cazzassetto, non si può entrare. È un casino, io non so come faccio a trovare là, ma tutte le scatole, una sopra l'altra, solo, la roba tutta in terra, Quello non sa più cosa c'ha, Secondo me quello io ormai non sa più cosa c'ha il tuo negozio, perché c'è tanta di quella roba e lui non si ricorda più da tutta quella roba che va, perché tutti mezzi tiri. E noi parliamo dentro, e dentro è peggio ancora, lì. Già lo so, già, ma la voce di è fatto così lui. Perfetto, vabbè. Oddio, cioè. Comunque, tutto bene? Aspetta un attimo. Guarda lì, chi è davanti? Luca, tu sei? Ma la Reci, tu sei? Che merda di persone che ci sono a questa frequenza. Avanti il bip, avanti il bip. Avanti il bip. E avanti. Avanti, chi è? E buttaci tutto perché non stai uscendo. Butta via tutto, tanto non stai uscendo. Luca, tu sei? Antonio, tu sei?